Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e Nord. La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano, collettivi e individualità sparse per il Messico, l'Italia, la Svizzera e l'Olanda. Una finestra sul Messico dal basso e a sinistra che resiste allo sfruttamento, alla repressione e al disprezzo delle classi dirigenti. Quel Messico che riprende in mano con dignità il suo destino attraverso l'autogestione e l'autonomia. Parliamo di Bachajón, Chiapas, guerra al territorio ancestrale, repressione e resistenza dell'altra campagna in Chiapas, la Brigata Internazionale a Santiago Xanica, in difesa dell'autonomia, 27 aprile 2011, un anno dall'omicidio di Betty Carigno e Yuri Iacola, Congresso Nazionale Indigeno, frammenti dall'incontro di Mezcala, il sogno americano finisce in fondo a una fossa comune, la voragine della guerra di Felipe Calderón, e nello stato di Guerrero, assoluzione per gli integranti di Radio Ñomda, contadini e contadine ottengono l'annullamento del progetto idroelettrico La Parota. Bachajón, un esempio di lotta per il territorio. 3 febbraio, circa mezzo migliaio di agenti della Polizia Statale e Federale, appoggiati da elementi dell'esercito messicano, hanno sgomberato centinaia di indigeni di Bachajón, aderenti alla otra campagna che bloccavano la strada Ocosingo-Palenque, ed hanno arrestato 117 persone. Gli indigeni avevano bloccato la strada in segno di protesta perché decine di priisti il giorno precedente avevano tolto loro il controllo della cabina di riscossione al sito turistico delle cascate di Agua Azul, controllo che mantenevano da 2 anni per arginarne la privatizzazione. Negli scontri c'è stato un morto e 2 feriti gravi. 15 febbraio, dichiarato l'arresto formale dei 10 contadini che difendevano il loro territorio a San Sebastián Bachajón. Il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de las Casas sostiene che nel procedimento ci sono state violazioni delle garanzie legali degli arrestati. Il governo, secondo il Fraiba, cerca di utilizzare i 10 detenuti come moneta di scambio per impossessarsi della cabina di riscossione delle cascate di Agua Azul. 19 febbraio. Carovana delle donne in difesa della nostra terra e del territorio, composta da donne delle varie comunità delle regioni Altos, Norte e di frontiera del Chiapas, che raggiunge Bachajón in solidarietà per i recenti fatti repressivi. 22 febbraio, giornata d'azione dell'altra campagna in Chiapas, per esigere la liberazione dei compagni di Bachajón e per denunciare la repressione contro tutte le comunità dell'altra campagna. Si annunciano le seguenti azioni. Ad Acteal, 2 giorni di digiuno e preghiere per la pace e la libertà dei prigionieri politici. Nella zona della costa, un blocco stradale che verrà poi represso con il fermo di 56 persone e l'arresto di 3 avvocati. Nella capitale, Tuxtla Gutiérrez, un volantinaggio è presidio davanti al palazzo del governatore. Nella zona di Los Altos, vicino San Cristóbal, un presidio di varie ore davanti al carcere. A Bachajón, un presidio a tempo indeterminato con blocco stradale intermittente. 24 febbraio, il Consiglio Autonomo Regionale della Costa conferma che tre giovani avvocati, difensori dei diritti umani, fermati lo scorso 22 febbraio, insieme ad altre 56 persone che protestavano contro la repressione a Bachajón, sono stati rinchiusi nel carcere di El Amate, a Cintalapa. José María Martínez Cruz ed Eduardo Alonso Martínez Silva, del Centro dei Diritti Umani di Ñochoa, così come Nathaniel Hernández Núñez, direttore dello stesso, sono stati accusati del reato di sommossa. Verranno liberati il 3 marzo grazie alle numerose mobilitazioni in Messico e nel mondo. 6 marzo, con la rinuncia dell'azione penale da parte della Procura Generale di Giustizia dello Stato, nella prima settimana di marzo sono stati liberati 4 dei 10 indigeni dell'altra campagna fermati il 3 febbraio scorso nel centro turistico delle cascate di Agua Azul. I contadini denunciano che i prigionieri politici liberati sono stati rilasciati uno alla volta, per essere poi ricevuti dai funzionari di governo che li avrebbero pressionati ad entrare nel tavolo di trattative promosso dal governo stesso. 7-8 marzo, giornate internazionali di solidarietà con i 5 prigionieri di Bachajón, convocata dall'altra campagna di New York, Justicia por el Barrio. Dal lunedì 7 marzo si sono svolti meeting, mostre ed azioni di protesta davanti a consolati ed ambasciate messicane, o in piazze pubbliche in una dozzina di paesi. A Città del Messico, New York, Londra, Edimburgo, Parigi, Berlino, Barcellona e Buenos Aires sono comparsi striscioni con scritto assassini e repressori contro il governo federale chiapaneco. Solidarietà con chi difende i diritti della terra e dal territorio delle comunità indigene e zapatiste e dell'altra campagna. Ci sono state proteste anche in Sudafrica, Puerto Rico, Austria, Marocco, Filippine e Colombia. Dall'1 al 5 aprile, 5 giorni di azione a livello mondiale per i 5 prigionieri di Bachajón. L'altra campagna di New York invita chiunque, ovunque nel mondo, a realizzare dall'1 al 5 aprile delle azioni, ognuno nella maniera che reputa più opportuna, al fine di esigere dal governo repressivo di Juan Sabines Guerrero la liberazione di tutti e 5 prigionieri politici. 8 aprile, i contadini Celtales, aderenti all'altra campagna di San Sebastián Bachajón, riprendono il controllo del botteghino d'ingresso alle cascate di Agua Azul, nel luogo in cui il governo nel febbraio scorso li aveva sgomberati, installando poi un modulo di assistenza civica. 9 aprile, a sassate e sparando almeno 15 colpi in aria, centinaia di agenti di polizia federali e statali, appoggiati da truppe federali, sgomberano i contadini Celtales da San Sebastián Bachajón. Anche se fino ad ora non si registrano feriti né arresti, 3 indigeni risultano scomparsi. Per molte ore i poliziotti hanno impedito l'ingresso dei turisti alle cascate. 20 aprile, mentre gli indigeni Celtales di San Sebastián Bachajón insistono per la liberazione dei loro 5 compagni arrestati a febbraio, il governo statale dichiara risolta la situazione con l'installazione congiunta del botteghino d'ingresso alle cascate di San Sebastián Bachajón e Agua Azul. In realtà il governo agisce senza l'autorizzazione dell'assemblea del villaggio di San Sebastián, mentre sul posto continua ad esserci una forte presenza di polizia e militari. 24-28 aprile, viene lanciata un'altra campagna internazionale di 5 giorni di solidarietà con i 5 prigionieri di Bachajón. In particolar modo riceve una gran risposta l'azione simbolica proposta dal gruppo francese Speranza Chiapas, chiamata per adesso sono solo striscioni, ai cui hanno risposto 65 gruppi di 23 paesi, di 4 continenti, mostrando e inviando foto con i striscioni solidali con la lotta di Bachajón. Solo in Francia 31 azioni. La situazione creatasi a Bachajón è esemplare di come avvengono i processi di sottrazione del territorio e la sua relativa privatizzazione. Questo villaggio si trova nei pressi delle cascate di Agua Azul, una bellezza naturale impressionante, con vigorose cascate dalle acque turchesi e brillanti. Un posto da sogno, già lentamente privatizzato e messo a disposizione del turismo internazionale. L'idea del governo, che solo fa eco alle richieste del settore imprenditoriale turistico, è quella di rendere queste cascate accessibili solo a chi può pagare, dichiarandole prima area protetta e quindi territorio federale e non più dei contadini, e poi vendendo le concessioni per stabilimenti, hotel e ristoranti alle grandi imprese turistiche messicane e straniere. La popolazione locale viene praticamente esclusa da questo processo di commercializzazione delle cascate, se non per occupare posti come parcheggiatori, venditori di braccialetti d'artigianato e dipendenti delle imprese di pulizia. L'interesse protezionistico dell'autorità per un territorio tradizionalmente agricolo coincide col fatto che, ancora adesso, prima di avviare il progetto turistico progettato per la zona, questo accesso alle cascate possiede un alto valore economico. Solo nel periodo vacanziero che si sta per concludere, le cascate hanno accolto più di 51.000 visitatori su 12.000 veicoli, in ragione di 35 pesos ognuno, secondo la tariffa fissata dal governo dopo aver strappato la stazione di pedaggio ai contadini San Sebastián nel febbraio scorso. Questi ultimi facevano pagare 10 pesos. Queste cascate, sfortunatamente per il governo e fortunatamente per l'umanità, si incunano nel territorio boscoso del popolo Zeltal di Bachacón, aderente alla piattaforma anticapitalista dell'altra campagna, e il piccolo villaggio di Bolonajau, totalmente zapatista. Questi indigeni sono coloro che hanno mantenuto intatta per secoli questa meraviglia e che oggi, per difenderla, continuano ad organizzarsi nelle file rivoluzionarie zapatiste o anticapitaliste dell'altra campagna. Per questo motivo, gli interessi imprenditoriali e turistici si scontrano con i diritti ancestrali che gli indigeni della zona hanno sul territorio. E per la stessa ragione, la regione è stata al centro di vari attacchi paramilitari nel corso degli anni, l'ultimo dei quali, il 2 febbraio, che è servito per cacciare i compagni di Bachacón dalla cabina di riscossione che avevano installato da 2 anni per recuperare almeno in parte il flusso di soldi che le imprese accumulano sul loro territorio. I compagni chiedevano una sottoscrizione di 10 pesos ai mezzi turistici che entravano alle cascate, specificando che questi soldi andavano alla fortificazione dei progetti sociali e politici autonomi. Il governo ancora una volta ha usato la strategia del conflitto intracomunitario per giustificare la repressione, la militarizzazione successiva e la privatizzazione conseguente del territorio. Infatti ha scatenato una banda di paramilitari legati al vecchio partito di governo PRI per attaccare con fucili la cabina di riscossione dei compagni. Nei violenti scontri che seguono, però, muore un uomo appartenente a questo gruppo paramilitare e il governo coglie l'occasione per intervenire a garantire la pace e la sicurezza. Di chi? Dei turisti, ci chiediamo noi? Quindi, con la maschera di chi interviene imparzialmente in una situazione di conflitto, scatena nei fatti la repressione di massa contro i compagni dell'altra campagna, con 117 arrestati, dei quali 5 sono ancora dentro. Pubblicamente il governo dichiara a tutta la stampa ufficiale in diretta televisiva che sarà installato un tavolo di conciliazione con le parti in conflitto e che assumerà la gestione dell'ingresso alle cascate con un'agenzia federale addetta, visto che gli indigeni, in fin dei conti, hanno solo dimostrato di essere dei selvaggi che litigano tra loro. Ma i compagni dell'altra campagna non sono caduti nella trappola tesa dal governo, rifiutando categoricamente di partecipare in questo tavolo di trattative. Infatti il governo ha usato ed usa i prigionieri politici come ostaggi nelle negoziazioni. Per questo motivo altri 5 compagni ancora restano dentro, imprigionati per disperdere le energie della lotta del villaggio di Machacón verso questa esigenza di libertà e dall'altro lato ricattare le famiglie dei prigionieri affinché cedano e smettano di impedire i progetti di privatizzazione, fratturando il fronte della resistenza. Ma non è solo questo. Il governo ha affinato le tecniche della controrivoluzione e della repressione. Infatti, non solo nel caso delle cascate di Agua Azul si è utilizzato il solito gruppo di indigeni venduti e paramilitarizzati per creare artificialmente un conflitto interno, ma si è anche adottata una nuova strategia per screditare la parte dei compagni, l'altra campagna. Il gruppo paramilitare, insieme ad alcuni membri del villaggio che hanno tradito il gruppo che resiste, hanno creato sotto istruzioni del governo un'organizzazione fantasma, denominata l'Altra Civile, il cui scopo e i suoi comunicati sono tutti volti ad infangare il nome dell'altra campagna zapatista e con questo nome simile a confondere i contadini e la gente non politicizzata. Ovviamente la stampa commerciale sta dando uno spazio inusuale a questa sigla e a questi comunicati, evidenziando il fatto che si tratta di una strategia disegnata dai piani più alti del governo ciapaneco, in particolare dal ministro degli interni Noel Castagnón, con l'appoggio diretto del governatore Juan Sabines. Ob- Ovviamente il conflitto non sarebbe tanto cruento come raccontato se la gente che lì vive non avesse resistito in maniera così organizzata. Progetti di morte e privatizzazione del genere avvengono in tutto il mondo, ma ne veniamo a sapere quando una resistenza riesce a renderli pubblici e a rompere il silenzio o le bugie con cui i media ce la rifilano. La comunità di Bachajón mantiene un presidio permanente sull'autostrada a Palenque e varie volte in questi mesi ha bloccato la strada in segno di protesta. Ha occupato nuovamente l'ingresso delle cascate per essere di nuovo sgomberati. Ha resistito alle offerte del governo e ha raccolto un'ampia solidarietà che va dai vicini zapatisti all'altra campagna internazionale, soprattutto di New York e dell'Europa. Ribadiamo come collettivi internazionalisti la nostra solidarietà a Bachajón, alle comunità zapatiste e a tutti gli e le abitanti di quei villaggi sperduti che con dignità difendono la madre terra e le bellezze naturali che mai vorremmo vedere privatizzate e strecciate. Come compagni e compagne in Messico, in accordo con le comunità della zona, stiamo lavorando per un boicottaggio internazionale turistico alle cascate di Agua Azul. repressione e mobilitazioni dell'altra campagna in Chiapas. 1 febbraio, due prigionieri politici del collettivo dello Solidario della Voz della Mate iniziano uno sciopero della fame nel carcere di Motosintra. 3 febbraio, i prigionieri politici del collettivo della Voz della Mate e i Solidarios della Voz della Mate, rinchiusi nel carcere di San Cristobal, iniziano una serie di digiuni e scioperi ad intermittenza per esigere la loro liberazione incondizionata. 12 febbraio, blocco stradale nella Panamericana che va da San Cristobal alla Guatemala, contro la repressione per la difesa del territorio indigeno. 13 febbraio, paramilitari sparano a Mizziton. Alle 11 di sera del 13 febbraio 2011, un gruppo paramilitare dell'organizzazione Alas de Aguila, Esercito di Dio, ha iniziato a sparare con armi da fuoco sul presidio della comunità di Mizziton, villaggio aderente alla altra campagna delle ZLN. Come conseguenza dell'aggressione è stato gravemente ferito allo stomaco l'indigeno Tzotzil Carmen Jiménez Heredia, di 23 anni, trasferito all'ospedale del municipio di San Cristóbal de las Casas. Dopo l'aggressione, intorno alla mezzanotte, un camion militare si è piazzato davanti all'entrata della comunità, con circa 40 soldati. 22 febbraio, durante un blocco stradale nella zona costa, vengono circondati e fermati vari manifestanti del Consiglio Autonomo Regionale della zona costa del Chiapas. Tra gli arrestati ci sono 3 avvocati del Centro dei Diritti Umani di Digna Ochoa. 5 marzo, dopo 34 giorni di sciopero della fame, ridotti allo stremo, i prigionieri di Motosintla rinunciano alla protesta di fronte all'omicida silenzio delle istituzioni giudiziarie. I prigionieri politici promettono nuove azioni. 8 marzo, manifestazione statale dell'Otra Campagna per l'affermazione politica delle donne e per la liberazione immediata dei prigionieri politici del Chiapas. 15 aprile, dopo un primo tentativo fallito 4 mesi fa, il giornalista italiano del Manifesto Gianni Proiettis, residente a San Cristóbal de las Casas da quasi 15 anni e docente universitario dell'Università Autonoma del Chiapas, l'UNACH, è stato espulso ed è stato costretto a partire per Roma con un volo da Città del Messico. In base all'articolo 33 della Costituzione messicana, il governo, attraverso gli uffici decentrati e i funzionari dell'Istituto Nazionale della Migrazione, l'INM, ha la facoltà di deportare a suo piacimento le persone indesiderate. 17 aprile, la giunta di buon governo, Asia Le Speranza, della zona selva di frontiera, con sede alla Realidad, denuncia che Patricio Domingo Vázquez, base di appoggio dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, è stato aggredito nella sua proprietà a Monteredondo, dalle autorità locali, accusato di falsi reati, sequestrato e consegnato al Ministero Pubblico che ha immediatamente stabilito la sua detenzione nella prigione di Motosintla. La giunta di buon governo chiede la liberazione immediata del detenuto zapatista. 28 aprile, il Comando Generale dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, un comunicato invita l'altra campagna e le basi d'appoggio zapatiste ad aggiungersi alla mobilitazione nazionale contro la presunta guerra al narcotraffico di Felipe Calderón. Il 7 maggio, una grande manifestazione attraversa la città di San Cristóbal con gli slogan «Fermiamo la guerra di Calderón, mai più sangue, siamo veramente stufi di…» e di seguito il reclamo specifico di ogni manifestante e organizzazione. Migliaia di uomini e donne, basi d'appoggio dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, si sono riuniti in mattinata a attivisti e aderenti dell'altra campagna presso il Centro Indigeno di Formazione Integrale, il Sidesi Unitierra, nella periferia della città e hanno marciato verso la piazza centrale. Verso le 5.30 del pomeriggio, il centro di San Cristóbal è stato letteralmente invaso dalle migliaia e migliaia di persone che si sono unite al corteo. Come è deducibile dalle news appena ascoltate, in Chiapas la situazione è tesa più del solito, visto che la guerra a bassa intensità, che va avanti dal 1994, ha subito un'impennata repressiva notevole. Non sono solo le comunità zapatiste ad essere sotto attacco, anche quelle simpatizzanti ed organizzate nella rete anticapitalista nazionale detta Altra Campagna. In questi ultimi mesi infatti ci siamo trovati di fronte non solo agli attacchi paramilitari che da sempre vengono utilizzati per creare conflitti indotti dall'esterno nei villaggi e nelle comunità, ma anche alla repressione diretta attraverso le forze dell'ordine statali, come nel caso delle cascate di Agua Azul e del blocco stradale della costa, represso brutalmente e che ha portato addirittura alla detenzione di 3 avvocati di un centro di diritti umani. Fra 100 difficoltà, non bisogna nasconderle, le comunità e le organizzazioni dell'altra campagna hanno comunque retto la botta, spingendo la strategia del governo volta a disarticolare le alleanze e colpire i punti più organizzati della resistenza anticapitalista, come Mizziton, La Costa o Bachacón. Il fronte di alleanze non si è spezzato, anzi, con il recentissimo appello lanciato dalle ZLN, sembra che il movimento anticapitalista vada rinvigorendosi. Il tema centrale delle mobilitazioni congiunte, che comunque hanno attraversato tutto lo Stato, resta quindi la richiesta dell'immediata liberazione dei prigionieri politici, caduti nelle grinfie dello Stato per difendere il territorio dalle mire usurpatrici delle multinazionali. In particolare, facciamo omaggio all'esistenza dei prigionieri politici che non hanno smesso di denunciare, lottare e solidarizzarsi anche da dentro il carcere. Questi compagni imprigionati sono i cinque di Bachacón: Juan Aguilar Guzmán, Domingo García Gómez, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro e il minorenne Mariano de Mesa Silvano. I compagni del collettivo di detenuti La Voz de la Mate: Alberto Patistán Gómez, Rosario Díaz Méndez. I compagni e la compagna del collettivo di detenuti Los Solidarios de la Voz de la Mate: Pedro López Jiménez, José Díaz López, Andrés Núñez Hernández, Alejandro Díaz Santis, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Ramón de Jesús Ruiz Rodas. Gli ultimi due sono i compagni che hanno sostenuto i 34 giorni di sciopero della fame nel carcere di Motosintra. ¿Viven en la tierra? Y a la tierra le merecemos respeto. porque ella nos da de comer, porque tenemos oxígeno, porque tenemos agua, y debemos utilizar el mejor mecanismo para cuidar el medio ambiente y no ocasionar un ecocidio. Brigata internazionale a Santiago Chanica, in difesa dell'autonomia. 29 marzo, presidio e sciopero della fame nella città di Oaxaca. Una cinquantina di persone bloccano per 6 giorni l'ingresso del palazzo del governatore per esigere la soluzione al conflitto elettorale nel municipio di Santiago Chanica e la liberazione di Abraham Ramírez Vázquez. Due attivisti iniziano uno sciopero della fame. 18 aprile, un gruppo di anarchici di vari collettivi libertari di Città del Messico manifesta sotto la casa del governo di Oaxaca della capitale federale, esigendo a gran voce la liberazione immediata di Abraham Ramírez Vázquez. 25 aprile, il coordinamento oaxacheño magonista popolare antineoliberista, la COMPA, formato da CODEDI, OIDO e CODEP, sfila nella capitale dello stato di Oaxaca per esigere nuovamente la soluzione delle richieste delle comunità organizzate, tra cui Santiago Chanica. Le organizzazioni rimangono in presidio permanente per 2 giorni nella piazza centrale. 29 aprile. Sotto la pressione delle mobilitazioni, il tribunale detta la sentenza ad Abraham Ramírez Vázquez. Innocente. Dopo 6 anni, 3 mesi e 15 giorni, il compagno esce accolto alle ovazioni della famiglia, della gente del suo villaggio e delle organizzazioni sociali che l'hanno difeso. I collettivi europei Nodo Solidale, Roma, il collettivo Zapatista Marisol, Lugano e Nomads di XM24, Bologna, i quali formano la PIRATA, Plataforma Internazionalista per la Resistenza e l'Autogestione Tejiendo Autonomias, hanno organizzato una brigata di osservazione sulle violazioni dei diritti dei popoli nativi nelle comunità di Santiago Chanica, Oaxaca, alla quale hanno partecipato anche un attivista francese e una spagnola. La brigata ha visitato il municipio e i suoi dintorni dal lunedì 14 al 21 di marzo del 2011, raccogliendo voci ed immagini delle persone che stanno subendo le suddette violazioni. Ci si è concentrati sull'ascoltare, capire, raccontare e rendere pubblico quello che sta succedendo nella comunità di Santiago Chanica. Negli ultimi mesi gli abitanti hanno denunciato attacchi ed abusi verso il locale Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni, CODEDI, e verso la popolazione in generale da parte di un gruppo affiliato al PRI e altri gruppi di potere. Storicamente il popolo nativo zapoteco di Santiago Chanica ha subito una costante repressione, militarizzazione e usurpazione da parte del capitale nazionale straniero. Al momento della brigata erano 3 i problemi fondamentali che affliggevano la comunità. 1. I progetti turistici di sviluppo che lo Stato e imprenditori nazionali ed internazionali vogliono realizzare nel territorio. 2. L'invalidazione delle elezioni con usos e costumbre, infine parzialmente riconosciuta grazie alle mobilitazioni e allo sciopero della fame di fine marzo. 3. La detenzione del prigioniero politico Abraham Ramírez Vázquez, incarcerato da gennaio 2005 e scarcerato infine il 29 aprile, dopo 6 anni, 3 mesi e 15 giorni. Il compagno è stato liberato grazie allo sprint finale delle mobilitazioni di aprile, ultime di decine di proteste internazionali e nazionali che si susseguono da 6 anni. Nel municipio di Chanica si continua ad utilizzare la maschera del PRI contro gli usos y costumbres. Alle spalle si nascondono interessi particolari e strategici, che hanno a che fare soprattutto con il furto delle risorse naturali di questa ricca regione. È palese il fatto che il potere e i potenti non possono permettere che venga eletta un'autorità non sottomessa agli interessi imprenditoriali della zona. Di fatto, la vera ricchezza di queste terre è l'acqua, abbondante nelle zone montagnose e scarsa nella costa, che gli impresari di Huatulco già cominciarono ad intubare dal 2005. È soprattutto per questa ragione, derubare e privatizzare il territorio in favore degli interessi delle imprese locali e transnazionali, che i popoli indigeni locali, tra cui gli abitanti di Chanica, stanno subendo una forte militarizzazione, repressione e la continua intromissione politica dello Stato nelle faccende della comunità. Grandi lobbies, appoggiati da politici di tutti i partiti, provano a fare enormi affari nei territori indigeni, come il piano Puebla Panamá, ora chiamato piano Mesoamerica, che nella Sierra Sud Zapoteca si traduce in progetti quali il Cuenca Copalita Tonemeca, i progetti turistici sulla costa Chacawa Huatulco, la diga Passo della Reina, l'autostrada Huatulco Salina Cruz, le concessioni a miniere delle multinazionali e alla privatizzazione del territorio in generale. La Brigata Internazionale ha realizzato un dettagliato dossier di denuncia che, oltre ad essere diretto ai mezzi di informazione di massa e dai tre livelli di governo delle autorità messicane, locale, regionale e federale, è diretto soprattutto all'organizzazione dei diritti umani, alle reti dei movimenti sociali dal basso, ai media indipendenti, nazionali ed internazionali, e a tutti coloro che si muovono e solidarizzano con i popoli in lotta per la difesa dei loro diritti, costumi, terre, risorse naturali e umane, e con i popoli che, in ogni parte del globo, esistono quotidianamente contro il capitalismo neoliberista e le sue forme di dominio, sopraffazione, disprezzo e repressione. Il dossier è scaricabile dalla pagina internet dei tre collettivi che formano la Pirata. Nodo solidale. www.autistici.org/nodosolidale. Collettivo Zapatista Marisol Lugano. cdtl.noblogs.org. Nomads. nomads.nvidia.net. Salutiamo con immensa felicità la libertà del prigioniero Abraham Ramirez Vázquez, cogliendo l'occasione per ringraziare tutti e tutte coloro che in Italia e Svizzera si sono sbattuti, organizzando proteste ed iniziative per esigere la sua liberazione. Lo stesso compagno Abraham ci ha chiesto di inviare questi saluti e ringraziamenti, ricordando che la felicità di questo momento è stata possibile solo grazie allo sforzo collettivo, in Messico e nel mondo. Ha ricordato anche che la sua liberazione è solo un passo verso tutte le lotte che ancora dobbiamo portare a termine, ancora una volta insieme ed organizzati. Aprile 2011, un anno dall'omicidio di Betty Carigno e Yuri Jacola. Un anno dal barbaro attacco paramilitare che ha impedito che una carovana umanitaria portasse cibo, medicine e vestiti al municipio autonomo di San Juan Copala, ridotta allo stremo da 10 mesi di assedio paramilitare. Un anno di impunità. I responsabili girano ancora armati per le terre dei trichi di San Juan Copala, il cui municipio autonomo è stato poi sgomberato a fucilate, con un saldo di una trentina di morti, 100 case bruciate e centinaia di famiglie profughe. Un anno di rabbia, di organizzazione dal basso e a sinistra. Un anno dalla semina del sangue, raccogliamo la speranza e salutiamo fraternamente i compagni e le compagne vicini a Betty e Yuri. A un anno di distanza, Omar, marito di Betty, viene arrestato dalla polizia dello stato di Oaxaca, dimostrando ancora una volta che cambia il governatore ma non la forma infame di governare. A un anno di distanza raffermiamo la nostra lotta e presenza a fianco ai popoli indigeni che costruiscono l'autonomia, ossia una forma di vita alternativa al capitalismo. Congresso Nazionale Indigeno, frammenti dall'incontro di Mezcala. Romero Chavez, Nahua di Tuxpan, Jalisco. Senza terra non abbiamo niente. A Tuxpan sono entrate imprese di avocado che vogliono accaparrarsi i terreni, pagano in dollari ai contadini e incominciano così a saccheggiare la comunità. Usano molta acqua e seccano le falde acquifere. C'è un'impresa israeliana che sfrutta i lavoratori e la terra. Le leggi e i trattati servono solo ai capitalisti, a noi non ci beneficiano. Juan Dionisio, Ñañu di Atlapulco, Estado de México. I programmi d'appoggio del governo in realtà dividono le comunità. A volte, senza informazione e per necessità, le comunità partecipano in questi programmi. Il programma di certificazione e sviluppo, Prosede in spagnolo, è avanzato molto nel municipio e lì le comunità hanno cominciato a perdere la loro propria identità, non lavorano e non difendono più il territorio. Rocío Moreno, Coca de Mezcala, Jalisco. Il governo ha dichiarato l'isola di Mezcala monumento storico, proprietà della umanità. Questa è un'altra forma di esproprio occulto. I programmi che pretendono implementare, come il Prosede o il Cordon Verde, attentano contro il territorio della comunità. Antonio Gutiérrez, Sotzil de las Avecas, Acteal, Chiapas. Cerchiamo di avere le nostre proprie autorità, prendere da soli le nostre decisioni, organizzare le nostre feste, tutto in maniera indipendente dal governo. Ma per quelli come noi e per i difensori della terra di San Sebastián Bachajón c'è stata il carcere e la repressione. Jesús Lara Chivarra, Bisharica di San Sebastián, Teponaguaslán. si stanno implementando strade per saccheggiare i nostri boschi e noi non ne abbiamo mai sollecitato la costruzione. Sappiamo che danneggerebbero il nostro sacro territorio. Nel territorio della comunità hanno dato anche 88 concessioni per l'estrazione di acqua, le quali sono una minaccia latente. Santos de la Cruz Carrillo, uscialica di Bancos de San Ippolito, Durango. Autonomia è l'autodifesa, l'auto-organizzazione, la nostra parola, la nostra decisione d'uomini e donne libere. Ci espropriano ideologicamente. Ci sono repressione, furti, incarcerazioni, pestaggi, omicidi e lo consideriamo normale. Ci saccheggiano della nostra salute, delle nostre credenze, dei nostri luoghi sacri. Vogliono la nostra terra per sfruttare una miniera. José Guadalupe, Purépecha, Michoacán. L'autonomia si applica nel parlare la nostra lingua materna, nel difendere la nostra parola e pratiche comuni tra i popoli, come l'assemblea, l'autogoverno, il rispetto del voto di ognuno, nel sentirci parte della natura senza servirci di lei. Il sogno americano finisce in fondo a una fossa comune. 18 gennaio, ogni anno in Messico si ammucchiano negli uffici di medicina legale una media di 3.000 cadaveri non identificati, dei quali il 30% sono corpi di migranti, ha dichiarato Maurice Tidbalbins, coordinatore dell'area di medicina legale del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Tutti questi corpi, di ignoti e migranti, finiscono nelle fosse comuni dei cimiteri, altri nelle facoltà di medicina di varie università. 7 aprile, Amnesty International fa pressione sulle autorità messicane affinché avviino un'inchiesta completa ed efficace su una fossa comune con 59 cadaveri, scoperta il giorno prima in una strada utilizzata solitamente dai migranti per arrivare negli Stati Uniti. I corpi sono stati ritrovati sepolti in una fossa vicino Tamaulipas, nord del Messico, uno stato nel quale sono soliti operare gruppi dediti al traffico di droga e che parte del percorso che seguono molti migranti per arrivare alla frontiera. L'organizzazione ha ricordato anche che già nell'agosto del 2010, nello stesso municipio di San Fernando, furono ritrovati corpi di 72 migranti irregolari. 22 aprile, Nuevo Laredo, Messico. Il numero di cadaveri scoperti nelle fosse clandestine nel nord-est del Messico è salito da 145 a 177 e almeno 122 dei corpi potrebbero essere passeggeri di autobus sequestrati nelle vicinanze di San Fernando, a 160 km dalla frontiera con gli Stati Uniti, dichiarano fonti di Stato. Dopo due giorni di ricerche, le autorità avevano riesumato 37 corpi dalle fosse comuni della capitale, Durango, senza che si siano potute identificare le vittime né le cause della morte. La violenza attribuita al crimine organizzato ha provocato più di 34.600 morti dal dicembre 2006, cioè da quando il presidente Calderón ha lanciato l'offensiva contro i cartelli del narcotraffico. Mentre il Mediterraneo si incendia al fuoco delle rivolte e i flussi migratori esplodono dentro le contraddizioni create dal capitalismo stesso, in Messico continua la strage silenziosa di migranti. Dalla frontiera sud alla frontiera nord, ad ogni passo del loro viaggio verso il sogno americano, migliaia di uomini e donne vivono il ricatto, il disprezzo, lo sfruttamento e la persecuzione. La polizia migratoria da un lato e il narcopotere dall'altro, che sono due facce complici della stessa putrida medaglia, rendono il viaggio verso il nord del mondo un inferno. Rapimenti, furti, violenze, abusi sessuali, omicidi di massa. La ricattabilità dei e delle migranti, illegali agli occhi del potere, li trasforma in soggetti inumani da cui trarre solo profitti infiniti, nei loro paesi di provenienza, nei paesi di transito e infine anche in quelli di arrivo. Questo esilio che vivono milioni di persone, uomini e donne, in Messico come nel mondo, è uno dei risultati della guerra che il capitale conduce contro l'umanità. Eppure, senza dubbio, il nostro noi non finisce di costruirsi, viaggia anche sui treni merci e rischia la sua vita attraversando le frontiere, di qui e di lì. Il nostro noi a volte è invisibile, ma presto si mostrerà. La voragine della guerra di Felipe Calderón. 9 marzo, viene resa pubblica una lunga lettera del subcomandante Marcos, dove il dirigente zapatista, scrivendo al filosofo Luis Villoro, analizza in particolar modo gli interessi economici che stanno dietro la cosiddetta guerra al narcotraffico scatenata dal presidente del Messico, Felipe Calderón, che, secondo fonti governative, ha causato più di 34.600 morti, dei quali almeno 1.000 minorenni in meno di 5 anni. 28 marzo, scandalo pubblico negli USA e in Messico sul caso Fast and Furious. Secondo le cui rivelazioni, il Dipartimento di Giustizia negli USA ha emesso vendute ai cartelli del narcotraffico più di 2000 armi di grosso calibro, dai classici Kalashnikov ai famigerati Barrett 50, i mitragliatori con mira telescopica che sfondano le auto blindate. 29 marzo, assassinati 7 giovani a Cuernavaca, nella capitale dello stato di Morelos. Uno dei 7 è Juan Francisco Sicilia, 24enne figlio del noto poeta messicano Javier Sicilia. Si scatena un'ondata di indignazione in tutto il paese. 6 aprile, 40.000 persone sfilano a Cuernavaca al grido di non più sangue e per denunciare la complicità fino ai più alti livelli fra potere politico e narcotrafficanti. Il poeta Javier Sicilia invita la mobilitazione nazionale per fermare la guerra di Calderón, ritirare l'esercito dalle strade e ricostruire il tessuto sociale della nazione. 28 aprile, le ZLN, attraverso una lettera del subcomandante Marcos a Javier Sicilia e con un comunicato del Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, aderisce alla protesta nazionale e invita i suoi militanti e l'altra campagna a manifestare contro la guerra. Quello che più salta agli occhi della terribile spirale di violenza che avvolge il Messico è che non si vede una soluzione, una fine anche forse cruenta a questa crociata cominciata nel dicembre del 2006 con l'operazione congiunta Michoacán dal presidente del Messico Felipe Calderón. Questa mattanza che, secondo le cifre ufficiali, avanza un ritmo di 21 morti ammazzati al giorno ha un inizio ben preciso, cioè da quando il presidente ordinò l'utilizzo di truppe militari per funzioni di polizia presuntamente contro i narcotrafficanti. Neanche a dirlo che il potere delle bande dei narcos non è stato affatto scalfito, quanto piuttosto si è rafforzato in armi e soldi. La droga in Messico è un business che immette 29 miliardi di dollari l'anno in un'economia nazionale che altrimenti non potrebbe sopravvivere alla crisi strutturale che attraversa il pianeta. I testi del subcomandante Marcos e le relative risposte degli intellettuali della sinistra radicale interpellati mostrano analiticamente chi ci guadagna e a che serve questa presunta crociata contro i narcos. Si tratta di una guerra senza vinti e vincitori, promossa e finanziata dagli Stati Uniti col mero fine di fare grandi affari con la vendita di armi ai due contendenti, destabilizzando lo scomodo vicino, militarizzando e paramilitarizzando immensi territori e infine controllando attraverso la paura indotta ampi settori della popolazione che altrimenti reagirebbero conflittivamente alla crisi politica, economica e sociale a cui sono costretti. È l'applicazione quasi alla lettera di quello che abbiamo conosciuto come Plan Colombia, che qui si presenta come iniziativa Mérida, un piano di aiuti economici e militari volti ad annichilire le forze sociali più attive, comprese le guerriglie, facendo affari e servendosi sia degli apparati militari che dei narcotrafficanti che si dice di combattere. È una guerra totale e permanente che abitua la gente in Messico a vivere con coprifuochi, blocchi militari, perquisizioni improvvise, esecuzioni sommarie, arresti indiscriminati e 5.700 desaparecidos in 5 anni. Uno stato d'eccezione giustificato per arrestare la violenza dei narcos e che in realtà ha solo moltiplicato le morti, molte delle quali definite dai Calderón danni collaterali. I danni collaterali sono spesso attivisti sociali, compagni e compagne, ma anche cittadini, contadini, casalinghe e soprattutto giovani che si trovavano al momento sbagliato e nel posto sbagliato, ossia nel ogni dove insicuro del Messico militarizzato. Contro questa incuranza della vita umana e contro tutti gli interessi economici capitalisti che fomentano e giustificano questa guerra folle sta prendendo forma un movimento cittadino plurale, dal basso, senza partiti, a cui aderito attivamente anche le ZLN e le basi zapatiste, invitando a riprenderci le strade contro la paura e le armi. La sfida è enorme, contro mostri armati di tutti i tipi, l'esercito messicano, il capitale nazionale, i narcos e gli Stati Uniti. Però in Messico, più di una volta, quelli più in basso di tutti hanno dimostrato di poter far tremare i potenti e cambiare il corso della storia. Non staremo a vedere, semplicemente ci staremo dentro. Compadre, che passa? Vuoi essere stupido? Sì, compadre, essere l'elicottero! Abajo de esos matorrales, de volada, apúrale. Híjole, se me hace que ya me embarré de algo. Es uno de menos, compadre. Se me hace que ya nos cargó la que nos trajo, compadre. se para atrás de la frontera. Nosotros no queremos aquí en los Estados Unidos. Ustedes están muy feos. Ahí viene la migra y se quiere atrapar. Entre el cone púa me acabo de brincar. Lo único que quiero es ir a trabajar. Para a mis hijos darles de tragar. Porque donde vivo no puedo progresar. Los condenados gringos no nos quieren dejar. Sus pinches intereses no nos van a entregar. Miseria, quiero yo dejar un baño del sitio es la chique. Lo que quiero es comida, techo, vestido, dignidad. Háblele a la amiga y me quiere agarrar. El cerco de púas me acabo de brincar. Lo único que quiero es ir a trabajar. Para a mis hijos darles de tragar. Porque donde vivo no puedo progresar. Los condenados gringos no nos quieren dejar. Pinches intereses no nos van a entregar. Assoluzione per gli integranti di Radio Nyomda. Lo scorso 25 marzo è stato notificato il difensore dei diritti umani e membri di Radio Nyomda, David Valtierra Arango, Silverio Mattias Dominguez e all'ex commissario Alchidal Genaro Cruz Apostol il loro atto di libertà dopo che era stato fabbricato un delitto nei loro confronti che li accusava di danneggiare gli interessi del cacique locale. Il giudice di prima istanza gli aveva dettato una sentenza con una pena di 3 anni e 2 mesi di carcere e una multa di 1.753 pesos. L'attacco contro Radio Nyomda è costante. Le persone che vedono danneggiati i propri interessi sono funzionari del governo che fanno tutto il possibile per zittire la voce degna e ribelle che si ascolta da Sulha. Radio Nyomda sin dall'inizio ha fatto conoscere i diritti che hanno come popolo nativo, Nankwe Nyomda. Radio Nyomda fomenta l'organizzazione comunitaria. È per questo motivo che ci sono state molte gravi aggressioni contro le persone che si organizzano nella regione Sulca. Uno di loro è Don Silverio, il quale ha perso un occhio durante lo sgombero davanti alle porte del Palazzo Municipale nel 2001. L'attuale aspirante alla presidenza municipale ha colpito brutalmente Don Silverio con una pietra al volto, provocando la perdita di un occhio. Lo stesso giudice, che ha sentenziato David Silverio e Genaro Cruz, dichiara ora innocente l'aggressore di Don Silverio. L'organizzazione non è un delitto, essere giovani o essere indigeni nemmeno. Per questo motivo la nostra lotta continuerà finché non vi sarà giustizia per Don Silverio Matias Dominguez e fino a quando i popoli non troveranno giustizia di fronte all'esproprio, al disprezzo, alla discriminazione e alla persecuzione dei quali siamo stati oggetto. Non riposeremo fino a quando non verrà rispettata l'autodeterminazione dei popoli nativi. Guerrero, contadini e contadine ottengono l'annullamento del progetto idroelettrico La Parota. Lo scorso 27 aprile il Consiglio degli Hidos e delle comunità che si oppongono alla diga La Parota, SECOP, ha dato a conoscere il quinto giudizio agricolo vinto dai contadini e dalle contadine che rifiutano la costruzione del megaprogetto idroelettrico La Parota. Il Tribunale Unitario Agrario di Acapulco è giunto alla conclusione che l'assemblea realizzata nel mese di aprile del 2010 è illegale. In quell'assemblea più di 300 sbirri di differenti corpi avevano impedito la partecipazione agli autentici comuneros che lavorano queste terre. Tale assemblea autorizzava l'espropriazione di 1.383 ettari ad uso comunitario. In fin dei conti ci troviamo davanti a uno scenario nel quale i contadini che si sono opposti alla parota hanno vinto un altro giudizio agrario contro le autorità federali e statali, in quanto sono riusciti a dimostrare le inconsistenze giuridiche presenti nell'Assemblea della Concepción di aprile del 2010. Nell'agosto del 2007 le comunità hanno realizzato un'assemblea nel rispetto degli usi e costumi nella quale, dopo essersi informate, hanno deciso liberamente di rifiutare la costruzione della diga alla parota all'interno del loro territorio. Hanno deciso di non convocare ulteriori assemblee per trattare il tema della diga alla parota, vale a dire la decisione è già stata presa. Nonostante ciò, il governatore e la Commissione Federale d'Elettricità non rispettano la decisione presa, convocando una nuova assemblea, raccattando persone di altri nuclei agrari, pagando i contadini affinché partecipino all'assemblea, recintando con rete metallica il luogo dove si sarebbe realizzata l'assemblea, ordinando l'installazione di blocchi di polizia per inibire la partecipazione dei contadini contrari e prendendo il controllo della sede. Il giorno della riunione la polizia municipale e statale forma un cordone per impedire l'entrata ai membri del SECOP. Allo stesso tempo i taxisti di Acapulco ricevono ordini dai superiori affinché occupino le sedie vuote dell'assemblea. Per il SECOP questa lotta, che dura da oltre 8 anni, è costata sangue, confronti, incarcerazioni e punizioni da parte delle autorità per detenere l'avanzare della loro lotta. Questo quinto trionfo, riconosciuto dal Tribunale Unitario Agrario di Acapulco, è la rivendicazione più chiara del movimento contadino di Zapata. La terra non è del governatore, tantomeno del CFE, né i deputati né i funzionari possono esprimersi sul destino di queste terre. La terra è di chi la lavora, di chi è disposto a morire per essa, di chi dà tutto per non perdere la cosa più sacra della propria vita. Il movimento contadino indigeno del sud del Messico ha memoria e dignità. Non sono dei novellini nella difesa della terra, parlano sinceramente e non si vendono per un piatto di fagioli. Sono semplicemente donne e uomini umili, lavoratori, che non sognano con carte di credito o conti in banca, che sanno vivere del frutto del proprio lavoro e che amano profondamente la madre terra. Per loro esistono ancora i fiumi Papagayo e Balsas. La loro portata e bellezza si deve agli uomini e donne del campo che in maniera esemplare ci hanno dimostrato come si onora religiosamente la pioggia, la terra e il suo frutto più bello, che è la pianta del mais. La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano. Il Nodo Solidale è un percorso indipendente dai partiti, antifascista e libertario, di cooperazione dal basso con le realtà antiautoritarie in lotta in Messico. Proponiamo piccoli progetti concreti di appoggio economico e politico, scambiando e attivando controinformazione e stimolando l'analisi fra i vari attori sull'autonomia e i percorsi di trasformazione radicale della società. Pensiamo che possiamo fare molto dal punto di vista della solidarietà internazionale e riguardo la costruzione dell'altro mondo possibile, contando sulle nostre forze, senza ricorrere alla mediazione o alle risorse istituzionali. Allacciamo esperienze per tessere nuove bandiere. L'Osservatorio America Latina è un coordinamento di collettivi che ruotano attorno allo spazio sociale XM24 di Bologna. Il principio che guida tutte le nostre attività di cooperazione dal basso è quello del sostegno ai processi di autonomia delle comunità con cui costruiamo le nostre relazioni. Un sostegno che si basa sulla condivisione dei saperi e delle esperienze e che porta alla partecipazione diretta ai processi di resistenza e di lotta con le comunità. Digma Radio, l'informazione indipendente dal Messico e l'Occhio. Que siga floreciendo, para que siga reverdeciendo, para respetar a la madre tierra. Reverdeciendo va, sí, reverdeciendo está, va resurgiendo, va reverdeciendo. Brota como sol naciente, desde la misma fuente, como el río que fluye, se diluye transparente, boca para estar pendiente, con un despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente, todo tiene un porqué, sí, todo tiene su razón, es un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va, que reverdeciendo está, va resurgiendo ya. Lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad, entre la piedra y el concreto, mira, volver a brillar. Ahí va la vida, que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene en Sulha, y que mi canto aquí resuene por todo continente, que se escuche bien toda la costa chica, y que mi beso aquí se eleve, y que por los aires libre vuele. Reverdeciendo va, sí, reverdeciendo está, va resurgiendo ya, oye. Lo natural, lo original, lo esencial. Bueno, invitándolos también a que se paren un poquito de la silla, mover un poquito el cuerpo, la música también es para bailarla. Y ahí los que están escuchándolos en casa también, pongan a mover los pies un ratito, celebrando que estamos vivos, celebrando un aniversario más de la palabra del agua que fluye, transparente, libre, honesta.